situazione ormai si va. Dove ti trovi? Io sono a San Giovanni. Okay. La situazione va avanti ormai da un'ora e mezza circa, cioè sono in corso gli scontri, c'è niente da fare tra i manifestanti e la polizia, che però ancora di fatto non ha mai caricato persona, ma usa solamente questi cipponi con cui praticamente si fa spazio a grande velocità. Questi cipponi attraversano la strada anche a rischio di investire le persone. Si ha notizia di almeno uno confermato, almeno una persona ferita. Sì, abbiamo saputo, sì. Esatto, ci arriva la notizia. Ecco, sì, quindi questo qui lo posso confermare, niente che l'abbiamo visto, cioè qualcuno l'ha visto, non personalmente. Dall'altro canto c'è una piazza cremita di persone, sono migliaia e migliaia di persone che non arretrano. Non arretrano, che stanno lì, no, nonostante gli attacchi. C'è una sorta di situazione a soffitto, cioè nei momenti che vengono sotto questi cipponi e la piazza un pochino arretra, ma regolarmente ripartono delle controcarte. A volte anche, come dire, assai travolgenti, e costringono le forze dell'ordine ad arretrare. Quindi si gioca tutto su questa discesa di San Giovanni da ormai circa un'ora e mezza, con questa dinamica di a soffitto apposta, come ho detto prima, di cariche e controcariche in pratica. Però chiaramente fino a poco fa in realtà c'era addirittura la murga che continuava a suonare mentre poco distante avvenivano gli scontri. Adesso a causa delle migliaia di lacrimogeni che sono stati lanciati, anche loro hanno dovuto sospendere, ma la piazza rimane gremita da solamente qualche migliaio di persone che non si, come dire, non indietreggiano, la quando è necessario chiaramente, ma regolarmente si rifanno sotto controcaricando, quindi avanti ormai da un po'. Questo mi sembra un dato importante, che insomma il dato politico è che la piazza non arretra e continua a non farsi intimorire da questi metodi. Adesso sì, anche se diciamo che la pressione è abbastanza forte e il fumo dei lacrimogeni è pervasivo, sono tutti quanti con il malo, con gli occhialini, in lacrima, eccetera. Però questo evidentemente, la cosa mi sorprende pure, non sta impedendo lo stazionamento qui in piazza durante questa fase di scontri. Continuano a essere i petardoni e quant'altro, fuochi d'artificio, però ecco, la dinamica è questa. Ho visto alcuni feriti in vario modo, chi con tagli, chi con delle bombe, però per adesso nulla di particolarmente grave. Ok, questo ci tranquillizza. Quello che ho visto io, però insomma non posso garantire, anche perché mi arrivano voci che da altre parti della città stanno avvenendo altri scontri. Anzi, se poi offline mi aggiornate anche per quello che succede altrove, mi fate un favore. Sì, lo faremo sicuramente. Ok, grazie per la tua corrispondenza, sei stato molto importante. Grazie, ciao, a dopo. Ciao. Richiamami offline. D'accordo, ok, ciao.